1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Cari ascoltatori, che la 105esima settimana decisiva per la riforma elettorale è appena cominciata, insieme alla 105esima decisiva per l'abolizione delle province. È solo che questa è decisiva veramente per la riforma elettorale, che questa sera, salvo colpi di scena, sarà legge e dunque habemus. Habemus Italicum, potremmo dirlo, credo, da stasera, ma domani mattina sarà così. 105 settimane di questa legislatura e forse ce l'abbiamo fatta. Sulle province continueremo a contare, eh? Intanto oggi avremo ospiti Chiara Geloni, giornalista, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, questo dalle 8:15, parleremo dall'indomani di Milano, certamente ancora gli scontri e la legge elettorale, ma anche le nuove contestazioni a Renzi sul tema della scuola, insomma l'attualità politica oggi ai nostri microfoni. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. È lunedì 4 maggio, i titoli, il Sole 24 Ore ha questo titolo ben poco incoraggiante, il fisco oscuro costa 17 miliardi, questo è il titolo di prima pagina. È la stima del Sole 24 Ore sui tempi e le risorse necessarie per far fronte ai principali adempimenti fiscali dell'anno. Poi Milano ripulita, Corriere della Sera, in 20.000 per pulire Milano, questo è il titolo di prima pagina per La Stampa, il corteo dell'orgoglio di Milano. Il giornale invece torna sugli arresti mancati, o meglio, arresti poi non tramutati in via all'estero. Toghe complici dei Black Bloc, questo è il titolo del giornale in prima pagina. Le carte che provano questo, tra i devastatori, i tanti antagonisti fermati e poi liberati prima del corteo. Il Secolo XIX invece mette in prima pagina Expo 5 arresti a Genova ieri. Per Repubblica, senza il disegno di legge scuola 100.000 a rischio, Renzi contestato, sono le nuove proteste sulla scuola. Anche il Messaggero, tensioni sulla scuola, Renzi apre, questo è il titolo di prima pagina. Ma voglio partire ancora dalle polemiche sulle manifestazioni a Milano. C'è un'immagine simbolo tra le tante, quella del poliziotto a terra che viene preso a bastonate, pugni, calci da alcuni manifestanti, poi riesce a divincolarsi. Questo poliziotto parla per la prima volta, lo fa con Repubblica, lo intervista Paolo Berizzi, è il vicequestore Antonio D'Urso, colui che dirige un commissariato di trincea, perché dirige il commissariato di Quarto Giaro, uno dei quartieri più difficili di Milano. Eccolo qui, a pagina 12 e 13 di Repubblica, intervistato. Intanto ammette: io posso dire poco perché su quell'episodio ci sono verbali di arresto, si farà un processo, dovrò testimoniare, quindi in questo momento posso solo dire ciò che ho visto e subito, anche se sono stati pochi attimi. Sono andato lì perché avevo identificato Alice, è quella ragazza fermata che dava un po' di testa, insultava tutti, a un certo punto di sfida ha detto anche al celerino: facciamo sesso selvaggio in cella. Ebbene, Alice, 33 anni, sta cercando di portarla via, a quel punto gli assalitori gli sono addosso, lui scivola sull'erba bagnata e iniziano a pestarlo finché l'intervento di altri militari mette in fuga i Black Bloc. Cosa succede dunque? Beh, non ricordo con precisione, racconta il vicequestore D'Urso. Non ricordo l'ora, so che abbiamo finito il servizio alle 18, il corteo si era ormai sciolto, c'era ancora gente che faceva casino. Continuavano a lanciare oggetti di ogni tipo, sassi, bottiglie, pezzi di ferro. Noto una ragazza in particolare a volto scoperto, memorizzo la sua faccia, era una delle più scatenate, faceva parte di questo gruppetto. È appunto Alice, capelli scuri, vestita di nero, quella che quando l'arrestano, scrive Berizzi, dice: la mia sfiga è stata quella di tornare lì e uno sbirro mi ha riconosciuto dicendo: arrestatela, arrestatela, lei è cattiva. E poi aggiunge, appunto sprezzante, la provocazione: dai, facciamo sesso selvaggio in cella. Vabbè, D'Urso racconta: 4-5 manifestanti mi sono addosso, mi spingono, sono caduto a terra. Uno con la maschera antigas cerca di spaccarmi la visiera con un oggetto di ferro, l'altro mi colpiva con un bastone. Se non avessi avuto il casco, la conchiglia, i parastinchi, le altre protezioni, sarebbe finita molto peggio. Ora invece sono ammaccato, ma niente di grave. Racconta che due giorni dopo era già in servizio, o meglio l'indomani era già in servizio, seppure con qualche livido. Vabbè, è una delle immagini simbola di questo vicequestore a terra e picchiato. Chi sono invece i cinque arrestati? Lo racconta Il Giorno con Mario Consani e Anna Giorgi. I cinque fermati, per la verità, sono IDP, 42 anni, origine tedesca ma da sempre residente a Milano, vecchi precedenti per furto e spaccio di hashish. Poi c'è Anita o Alice, come si chiama, questa 33enne, lavoro precario da hostess nei convegni, abitué di manifestazioni a sfondo politico, ma il suo avvocato dice l'han presa, non c'entrava nulla, dicono tutti così ovviamente. Jacopo P, 23 anni, di Rozzano, incensurato, e poi altri due, uno di Lodi e uno di Alessandria, di 32 anni. In tutto questo c'è la polemica del perché la polizia non sia intervenuta. Come racconta sempre sul Giorno, sotto anonimato un poliziotto, a pagina 7, potevamo fermarli. Il poliziotto furioso dice stop dall'alto. Erano lì, bloccati. Se ne potevano fermare parecchi, ma dal funzionario è arrivato l'ordine. Ma già dalla vigilia si sapeva che l'orientamento era quello, evitare il contatto a tutti i costi. E così è stato, anche se abbiamo visto quel che è successo e francamente mi dispiace molto per Milano, una città che conosco e che amo. Parla dunque questo poliziotto furioso, dato dal Giorno, dice stop dall'alto, li avevamo ormai chiusi in una piazza, ma l'ordine era proprio questo, evitare contatti. Allora che succede? Allora li stanno fermando i giorni dopo. Potrà servire tutto questo? Ma io ho dei dubbi, con un buon avvocato e di fronte al giudice, che possano reggere le accuse. Per esempio nei confronti di alcuni greci che sono stati fermati ieri mentre facevano spesa all'Esselunga. E gli hanno detto venite con noi, gli hanno fatto un prelievo forzoso del DNA e lo verificheranno con il DNA prelevato sulle tute nere abbandonate per strada. Se ci sarà una compatibilità, questi verranno ritenuti responsabili di aver fatto parte di questo corteo. Come ci ha spiegato però prima l'avvocato Rienzi, non è che far parte di un corteo è dimostrazione in processo di aver fatto delle violenze. E quindi, per dare un nome ai Black Bloc, al setaccio anche tracce di DNA, così pagina 4 della Stampa con Paolo Colonnello. Mentre a Genova, ieri, come racconta la prima pagina del Secolo XIX, hanno proprio fermato 5 Black Bloc francesi. Li hanno fermati mentre danneggiavano alcune auto. Lo racconta anche il Corriere della Sera con Andrea Galli e Gianni Santucci a pagina 6. Fermati a Genova 5 Black Bloc francesi. Uno di questi aveva il divieto di reingresso in Italia fino al 2017. Emesso dal prefetto di Torino per motivi imperativi di pubblica sicurezza, faceva parte dei NOTAV della Val di Susa e aveva commesso violenze. Eppure erano in Italia. Il sospetto, visto che hanno trovato anche nella loro casa un biglietto dell'autostrada pagato con uscita Milano Ovest il 1 maggio, il sospetto è che abbiano preso parte anche alla manifestazione, agli scontri di Milano, e poi erano a Genova per cercare di rientrare in Francia. Sono stati fermati ieri. In tutto questo i 20.000 invece di Milano che hanno ripulito la città è il volto bello, se volete, di una città che si rialza, una città che dice no a queste violenze, e tutti i giornali raccontano questa marcia dei 20.000. C'era anche qualche VIP, Roberto Vecchioni, Claudio Bisio, c'era ovviamente il sindaco di Milano Pisapia, per cercare di ripulire, dare una risposta civile all'inciviltà dello scorso weekend. Vabbè, facciamo un salto all'Europarlamento per raccontare due articoli. Il primo è di Marco Zatterina, pagina 11 della Stampa. Ippoterapia, zoo ucraini e soap opera, le interpellanze assurde in Europa. è il racconto di come molti eurodeputati facciano delle interpellanze spesso assurde, su tematiche assurde. Perché? Perché ci sono delle classifiche che in base al numero di interpellanze degli europarlamentari mettono appunto le persone, gli europarlamentari, in testa a queste classifiche, come dire, sono tra i più attivi. In realtà basta fare delle interrogazioni a volte orali, quindi neanche scriverle, neanche prendersi la briga di scriverle, ma intervenire oralmente. E alcuni che sono tra i più assenteisti degli europarlamentari risultano invece tra i più presenzialisti nel fare interrogazioni. Tanto che Lara Comi, eurodeputata italiana, ha voluto fare una provocazione martedì. Da grafomane ha presentato in 24 ore centinaia di interpellanze e dice: l'ho fatto proprio apposta per far vedere come le classifiche del lavoro degli onorevoli europei siano falsate, perché io, grazie a 100 interpellanze anche inutili se volete, balzo così in testa alla classifica come se fossi una delle più attive. In realtà ho fatto 100 interpellanze così. Il problema, racconta la stampa, è che ogni interpellanza costa. Ogni interpellanza va tradotta in tutte le lingue dell'Unione Europea, va messa su carta, va stampata. Insomma, ogni interpellanza costa 1.500 euro. Quindi questo giochetto di avere presentato 82 interpellanze in un giorno Lara Comi ha fatto partire 120.000 euro, ovviamente nostri. Lo so, sono molti, ammette lei, ma è una guerra per la meritocrazia. Voi vi rendete conto? Classifiche in base alle interpellanze, alle interrogazioni parlamentari europee, cioè delle cose a volte farlocche, appunto, sull'ippoterapia o sugli zoo in Ucraina. Evviva! Ma il premio Mani sul Volante per l'articolo che ci fa pensare di questa giornata va, sempre relativo al Parlamento europeo, però al Messaggero. David Carretta racconta: spunta l'aumento ai tecnici del Parlamento europeo, ecco i tagli bluff. Dopo le promesse elettorali, le spese del Parlamento europeo iniziano a risalire. Il bilancio da 1.750 milioni l'anno sale a 1.838 milioni. Prendono per esempio più soldi i parlamentari per gli assistenti. Da 21.000 euro al mese ora vengono garantiti 23.000 euro al mese a ogni europarlamentare per pagare i propri assistenti. 23.000 euro al mese. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! Alessandro Milan, al suo segnale, scatenate l'inferno. E come no. Allora, cari ascoltatori, oggi, come detto, ci sarà l'approvazione della legge elettorale in via definitiva alla Camera questa sera. Ma già lo scontro politico si sposta sul tema della scuola, la riforma della scuola contestata. Domani ci sarà lo sciopero. Si è avuto già un'anticipazione col fatto che Matteo Renzi è andato alla festa dell'unità a Bologna e c'è stata qualche contestazione, soprattutto dei COBAS della scuola. Il titolo di pagina 10 del Corriere è questo: la sfida di Renzi, non mi fermano tre fischi. È la cronaca di Francesco Alberti, dei tafferugli, delle uova dei centri sociali, le cancellate del parco della Montagnola, nemmeno si accorge, sono rumori di sottofondo per il premier Renzi, con la mente ancora agli scontri milanesi dell'Expo, che liquida sotto la voce Teppistelli con il Rolex. Si accorge invece Renzi dei fischi di un nutrito drappello di studenti e precari COBAS della scuola, che sono sgusciati tra le maglie delle forze dell'ordine e lo attendono sotto il palchetto della festa dell'unità. Non mi spaventano tre fischi, cambierò l'Italia, dice Renzi, che poi usa anche alcune delle metafore che lo hanno reso famoso per anche qualche titolo di giornale, e infatti li conquista. Una è questa: non saremo come Dorando Pietri, non ci fermeranno a 100 metri dal traguardo. Dorando Pietri, che alle Olimpiadi di che anno? Credo nel 1908, alle Olimpiadi di Londra, a pochi metri dal traguardo della maratona, stremato, barcolla, cade, viene aiutato poi dai giudici e per questo verrà squalificato, no? È diventata un'immagine simbolo, quella di Dorando Pietri. Ecco, Renzi dice: non faremo come lui, non arriveremo a 100 metri dal traguardo, cambieremo l'Italia. Certo, però le contestazioni sono contestazioni che a un certo punto Renzi vuole sfidare in prima persona, tanto che alla scorta anche un po' basita dice: convocatemi quelli del Cobas che contestavano, racconta sempre Fabrizio Roncone a pagina 11 del Corriere della Sera. I precari della scuola che fischiavano: chiamateli, voglio parlarci. Lo staff si guarda tutti perplessi, la scorta mette musi contrariati, bisognerebbe partire subito per Milano, ma Renzi dice no, forse non mi sono spiegato, voglio parlare con quei precari, voglio spiegare loro che la riforma della scuola che abbiamo in mente è una buona riforma. E lì c'è il confronto raccontato anche da Repubblica a pagina 3. Non ce ne andiamo di qui finché non vi ho convinto, così Matteo Renzi lo dice più volte alla delegazione di 4 rappresentanti della protesta della scuola che incontra dopo il comizio. Tra questi anche Monica Fontanella, la docente che appena una settimana fa aveva anche contestato il ministro all'istruzione Stefania Giannini e che il ministro aveva riappellato con il termine squadrista. Insieme a Monica Fontanella anche 2 precari seduti sugli scatoloni delle bottiglie di acqua minerale alla festa dell'Unità. Lungo botte e risposta, i delegati della scuola sono guidati da Giovanni Cocchi, 60 anni, insegnante delle medie, già storico leader del movimento della scuola bolognese. Un vero e proprio duello verbale. A un certo punto Renzi dice: guardate che c'è già un emendamento in commissione in cui viene restituito potere agli organi collegiali, cioè al consiglio d'istituto. Non è vero, replicano i Cobas, non c'è stata alcuna riunione. E Renzi ribatte: volete che chiami la persona che mi ha detto di questo emendamento? Mi impegno io personalmente su questa modifica. E poi si passa alle assunzioni, ai concorsi, insomma questo serrato confronto che Renzi ha avuto con i rappresentanti del mondo della scuola che protestano. C'è su questo tema anche un'intervista alla leader CGIL Susanna Camusso. È Roberto Mania che la intervista sempre su Repubblica, pagina 4, ed esordisce così: scusi Camusso, ma non è paradossale uno sciopero della scuola contro una riforma che prevede 100.000 assunzioni di precari? Ma secondo lei, risponde Camusso, un sindacato può scioperare contro le assunzioni? La verità è che il governo non è in condizioni di farle per l'inizio dell'anno e ha posto criteri assai discutibili che dividono in modo arbitrario i precari. Ma non è che protestate contro una legge che vi ha tagliato fuori e che ha ignorato il tradizionale potere di veto dei sindacati? Francamente mi paiono argomenti vecchi e strumentali, risponde Camusso. Le cose sono più serie. Questa è una riforma che lede il diritto costituzionale della libertà di insegnamento, che affida a un singolo, il dirigente scolastico, come si chiama oggi il preside, la totale discrezionalità su chi debba insegnare o meno. Non è ciò che prevede la Costituzione. E via così le contestazioni di Susanna Camusso a questa riforma, ma forse un po' di chiarezza sui numeri dei precari li dà Il Sole 24 Ore oggi. Eugenio Bruno e Claudio Tucci raccontano tutti i rebus del pianeta precari. A pagina 6 gira e rigira la sorte dell'istruzione italiana, resta appesa a quella dei suoi precari. La pensa così il governo, che ha posto l'assunzione di 100.000 docenti alla base della buona scuola, ma ne sono convinti anche i sindacati, che infatti hanno messo in cima alle motivazioni dello sciopero di domani la stabilizzazione in massa di tutti gli insegnanti in graduatoria, abilitati e non. La proposta però è difficilmente compatibile con gli equilibri di finanza pubblica, visto che stiamo parlando di un esercito di oltre 600.000 persone. Per capire a fondo, ecco che Il Sole dà qualche numero. I precari a vario titolo della scuola sono circa 610.000, una minima parte dei quali è scritto nelle graduatorie esaurimento, le famose GAE, che l'attuale esecutivo punta a svuotare. Si tratta di 125.000 professori, a cui vanno aggiunti 485.000 aspiranti insegnanti presenti nelle liste d'istituto. Se però ci limitiamo ai docenti che hanno avuto almeno un contratto annuale o fino al termine delle lezioni, la platea da mappare scende a 140.000 insegnanti, ed è questa la cifra da cui il Ministero è partito per il piano di assunzioni che le sigle sindacali considerano insufficiente. La buona scuola, quando diventerà legge, farà partire una macchina organizzativa per assicurare 100.701 assunzioni a partire dal 1 settembre tra gli iscritti alle GAE. Gli stabilizzandi saranno divisi in 3 gruppi, 36.000 copriranno il turnover e occuperanno quindi un posto libero, altri 15.000 incrementeranno il sostegno, i restanti 50.000 confluiranno nell'organico dell'autonomia. Il piano dell'esecutivo poi non finisce qui, sia perché i precari veri sono un po' di più, sia perché alcune classi di concorso delle GAE risultano esaurite, per cui i presidi dovranno continuare a ricorrere a supplenti attingendo dalle liste d'istituto. Questi sono alcuni dei numeri: 100.000 da assumere a partire dal 1 settembre, non tutti, ma i sindacati dicono in totale sono oltre 610.000 i precari a vario titolo, e dunque non va bene e vanno assunti tutti. In tutto questo la legge elettorale che è all'ultimo miglio, all'approvazione finale questa sera, nonostante Enrico Letta vada da Lucia Annunziata in mezz'ora a tuonare contro questa legge, nonostante Romano Prodi vada da Fabio Fazio a tuonare contro questa legge, tutto succede che va avanti così e la legge verrà approvata questa sera. Verrà approvata questa sera, si conteranno coloro che non ci sono, si conteranno coloro che non si presenteranno in aula, staremo a vedere. I numeri però sono tutti dalla parte di Renzi. Per quel che riguarda invece la scuola, giusto per chiudere questo tema, il 72% di persone non conosce la riforma. Questo è un sondaggio del Corriere della Sera con Nando Pagnoncelli. Il 72% di italiani non conosce la riforma. Io in questi sondaggi dico che sempre che c'è dell'ottimismo, secondo me sono anche molti di più le persone che non conoscono la riforma, ma il 72% secondo Nando Pagnoncelli di italiani non conosce neanche quali sono gli elementi all'interno della buona scuola. Vabbè, veniamo all'altro tema, che è quello delle pensioni. Sapete che c'è stata una bocciatura da parte della Corte Costituzionale di parte della legge Fornero. Per questo motivo le pensioni, la mancata rivalutazione del 2012-2013 delle pensioni oltre i 1.406 euro mensili sono considerate illegali, anticostituzionali, e quindi vanno restituiti i soldi ai pensionati. Quanto è che va restituito? Secondo Federico Fubini e secondo Repubblica il conto è salito a 13 miliardi. Questo è quello che dovremmo restituire, questo è il buco nei conti pubblici per restituire ai pensionati ciò che ai pensionati è stato tolto dal governo Monti con la legge Fornero. Anche Mario Sensini sul Corriere della Sera: allarme pensioni, il governo corre ai ripari, i rimborsi saranno a rate, le priorità alle rendite più basse. Ci sono le prime riunioni operative a Palazzo Chigi, al Tesoro, all'INPS, per capire come far fronte a questo buco, come ridare indietro i soldi ai pensionati. La restituzione delle somme per il principio di competenza dei bilanci cadranno sul disavanzo pubblico degli stessi anni in questione, cioè 2012-2013, questo dice il Corriere della Sera. Sta di fatto che il deficit, che secondo Repubblica è di 13 miliardi, è un deficit che andrà colmato in qualche modo. Gli daremo indietro i soldi, tranquilli pensionati. Come mi ha telefonato prima in segreteria, molto arrabbiata una pensionata, a dire io mi arrabbio sui conti pubblici, voglio indietro i soldi che mi hanno dato. Va bene, ve li ridaremo tutti, e noi invece giovani la pensione non la vedremo mai. Viva così. È tornato Mauro Meazza, buongiorno Mauro. Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, come stai? Bene, tu? Bene, molto bene, non so se hai seguito, hai potuto seguire anche il campionato in questi giorni, questa settimana. Di pallavolo? No, quello di capisco. Pallamano? Ti capisco molto bene. Guarda, ti voglio segnalare, so che hai già parlato dei numeri dei precari, quindi non tedio ulteriormente gli ascoltatori, la vicenda è abbastanza complicata. Hai anche già evocato che il nostro titolo principale è Sole 24 Ore, cioè il costo di 17 miliardi per gli adempimenti fiscali troppo complicati. Abbiamo due intere pagine. Ti segnalo, non so se puoi mostrarla agli ascoltatori, la nostra infodata. Che è una, sai, questa notizia data con i numeri in qualche modo, che riguarda tutti i giovani d'Europa, da cui si apprende che siamo il paese europeo in cui gli under 30 se ne vanno più tardi da casa. per motivi naturalmente non solo culturali ma evidentemente anche economici, di possibilità di trovare lavoro. Tutti i numeri sull'infodata che stai mostrando in questo momento. Eccolo qua, aspetta, ecco. Scusa, ero un po' in ritardo, me l'ho distratto sull'infodata. Sì, no, stai in ritardo un po' come De Sciglio, cioè sì. Dovresti... No, lui è entrato in anticipissimo, 40 secondi. È entrato molto rapidamente, ma se n'è andato altrettanto rapidamente. Sì. Va bene, ti volevo anche segnalare. Secondo te hai fatto la doccia dopo 40 secondi o non c'è bisogno? Ma probabilmente si è fermato lì e ha assistito. È un modo un po' laborioso di vedere la partita da una postazione comoda, immagino. Sì, esatto. Volevo segnalarti anche, come ogni lunedì, sì, l'esperto risponde. Sai che l'esperto risponde comprende sia le risposte ai quesiti che vengono inviate dai lettori, sia importanti approfondimenti. In questo caso, sulla materia di risparmio e famiglia, parliamo di mutui. Potrebbe essere il momento di rinegoziare il tuo mutuo, caro Alessandro. Ecco. Come fai a scoprirlo? Leggi Vito Lops oggi sull'esperto risponde. Vito Lops, come sai, grande esperto della materia, ti spiega appunto se è il momento di rinegoziare il tuo mutuo e tutte le varie avvertenze che devi porre in campo, scusa se dico la parola campo, porre in campo per Ah sì, no, beh certo, anche nel tennis, volendo guardare, ma infatti anche ieri sera devo dire che il punteggio poteva essere tennistico. E volevo anche dirti che oltre all'esperto risponde c'è anche un prolungamento digitale che è il nostro ebook, che puoi scaricare utilizzando proprio il codice che trovi su Esperto Risponde. Quest'oggi parliamo di ISEE. E poi, guarda, una buona notizia. Ancora 6 mesi per utilizzare le detrazioni per i lavori in casa, sì. Tutto il calcolo, le possibilità ancora aperte sono nella parte di norme e tributi. Ti è mancato questo binomio, sì, scommesso. Sì. Ma sapevamo, ti abbiamo pensato, abbiamo messo anche la tua foto in pagina 15 oggi, però in piccolo, perché non volevamo anche... c'è una tua piccola foto, una cosa garbata. Ma giusto, per ricordare agli ascoltatori, ma soprattutto alle ascoltatrici, la tua beltà. E con questo penso che il tempo a mia disposizione sia esaurito. Vado a seguire altri numeri, quelli ad esempio delle classifiche del campionato di calcio. Va bene, fallo pure. E quindi ti lascio naturalmente al tuo traffico. Alessandro Milan, il Pippo Inzaghi dell'informazione. Molto bene. Sono qui ancora non licenziato e quindi molto bene. Allora, per quel che riguarda la politica, c'è ancora da raccontare, se volete, che le elezioni regionali il 31 maggio regalano anche degli apparentamenti politici alquanto bizzarri, diciamo così, ma siamo abituati a tutto la politica. La Campania, per esempio, regala questa chicca. Ciriaco De Mita, che fino a poco tempo fa tuonava contro Renzi dicendo che la sua è una deriva autoritaria, ora si allea con Vincenzo De Luca, cioè il candidato del centrosinistra alla regione Campania, e dice in un'intervista Ciriaco De Mita a Repubblica: beh, ma questo è un apparentamento che vale solo per la regione, l'accordo è a livello regionale. Tra l'altro fa candidare anche sua figlia, ma dice: non l'ho fatto certo per far candidare mia figlia, io con De Luca per far rivivere la storia della Democrazia Cristiana. Ciriaco De Mita fino a poco tempo fa era centrista e stava con Alfano, dunque con il centrodestra. Ma sono cose che capitano per quel che riguarda le regionali. Anche La Stampa si concentra su questo ribaltino definito così in Campania. De Mita torna a sinistra, NCD e UDC si dividono e l'eterno democristiano di Nusco si smarca e appoggia il PD di De Luca. Il nipote di Ciriaco De Mita, mentre su Repubblica aveva intervistato lo stesso Ciriaco De Mita, qui il nipote spiega la mossa: è un siluro ad Alfano, la coerenza è solo una percezione soggettiva. Vabbè, trovate pane per i vostri denti se amate queste questioni della politica. Vi voglio invece segnalare una pagina che proviene dall'Arabia Saudita, molto interessante, su Repubblica. È un intervento di Raif Badawi. Chi è Raif Badawi? È un blogger, è un attivista arabo-saudita di 32 anni, sposato con 3 figli, arrestato dal 2012 in carcere perché aveva chiesto nel suo blog che cosa? Un'apertura con una richiesta specifica di separazione tra lo Stato e la religione. Per questo motivo è stato incarcerato, inizialmente condannato a morte, pensate, ma ora poi la sua pena è stata commutata in 10 anni di carcere, 1000 frustate già ricevute e una gravosa multa, 1 milione di rial. Ebbene, il suo intervento è questo, lo trovate su Repubblica. Mi ero assegnato il compito di proporre una nuova chiave di lettura del liberalismo in Arabia per dare un contributo all'emancipazione della società del mio paese. Ho cercato di abbattere i muri dell'insipienza e la sacralità del clero, di diffondere un po' di pluralismo e rispetto per i valori quali la libertà d'espressione, i diritti delle donne, delle minoranze, dei nullatenenti in Arabia Saudita. È stata questa la mia vita fino al mio arresto nel 2012, quando sono finito in una cella in mezzo a gente incarcerata per i crimini più diversi: assassini, trafficanti di droga, pedofili, stupratori di bambini. La vita accanto a loro mi ha cambiato per molti aspetti, soprattutto sul piano umano, cancellando molti dei miei precedenti stereotipi. Inizia così l'intervento di Raif Badawi, è molto interessante, ve lo suggerisco, pagina 19 di Repubblica, ecco come in Arabia Saudita si può essere messi in carcere. Vi segnalo anche la storia, pagina 21 della Stampa, raccontata da Massimo Numa, di Nadia Goglia, 37 anni, funzionaria della società che si occupa col comune di Torino di fare i funerali dei poveri, cioè persone che non hanno nulla, neanche i soldi per potersi pagare la bara. E lei racconta col suo piccolo team come curi ogni dettaglio di chi muore a Torino e non ha un centesimo, ma avrà comunque una bara di buona qualità, il carro funebre, la lapide col nome, le date con l'alfa e l'omega di ciascuna singola vita perduta o no. Vabbè, argomento un po' macabro, ma lo trovate a pagina 21 della Stampa, mentre siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. No! Lo sapevo! Fabio Cavalera, una pagina intera del Corrierone della Sera su William, lui, tutti a guardare Kate, tutti a guardare la secondogenita, William, più che perfetto, tutti che parlano della mamma, fresca e radiosa, eppure lui, golfino blu, figlio in braccio, è il principe che non sbaglia nulla, nulla! Ma chi se ne frega!